cintura è forte, ha una cintura nera con le borchie. E non mi chiede la fede, un castello, la luna, le balla tutta notte, poi la mattina morte, si mette i miei boxer e offre cene precotte, bibite bollenti, bottiglie a cui toglie, tappi con i denti, non mi inganna mai, non bananna mai, mangia panna spray. La mia ragazza è strana, non dice che mi ama, ma beve birra e fuma un tatu sulla schiena. La mia ragazza mena. La mia ragazza se piange non è mai per ricatto, non cucina in cucina, mi cucina nel letto. E si mette la notte gli occhiali da sole e si mette a gridare contro il telegiornale rock. La sveglia con le boy band spadiglia, ama il fantaskate, la drum and bass, ma il rap che la ripiglia e scatta. Quando vedi che s'arrabbia scappa, quella donna sembra acqua ma è grappa. È un litro di nitro con la micia corta, la faccina pulita, la fedina penale sporca. La mia ragazza è strana, non dice che mi ama, ma beve birra e fuma un tatu sulla schiena. Ma lei le faccio senso quando non mi radio e sudo, e sono cotto cotto perché le piaccio crudo. Quando la guardo tutto ha più senso, il mondo sembra meno cattivo, e benzina sul fuoco è perfetta davvero, anche se ho un occhio nero. Scusate. La mia ragazza è strana,